piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Dalla gioia per aver battuto la Juventus alle polemiche per non aver rispettato le misure anti-Covid. Le regole imposte dal governo per evitare nuovi contagi non hanno fermato migliaia di tifosi napoletani che si sono riversati in strada dopo la conquista della Coppa Italia. Di mascherine nemmeno l'ombra, impossibile rispettare il distanziamento sociale. C'è chi addirittura decide di farsi il bagno nelle fontane, baci, abbracci, assembramenti ovunque. Per ore la città è stata presa letteralmente d'assalto, fuochi d'artificio, caroselli di auto e motorini, ma anche vandali. Scene che hanno fatto il giro del mondo. Sono degli sciagurati, in questo momento non ce lo possiamo permettere, ha tuonato Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, mentre il senatore Salvini ha chiamato in causa le autorità regionali. Di chi sia la responsabilità della mancata vigilanza si chiedono in molti, e soprattutto a che serve giocare le partite a porte chiuse se poi, al fischio finale, le città si trasformano in arene impazzite. Diciamo che la trasmissione di oggi è la coda di quella di ieri. Ieri abbiamo parlato del calcio con il pubblico virtuale, calcio senza tifosi allo stadio, era la partita finale di Coppa Italia, Juve-Napoli, e oggi raccontiamo di quello che è accaduto comunque. I tifosi non sono andati allo stadio, al posto dei tifosi c'erano dei manichini, digitali ricostruiti, immaginati, però per la legge inequivocabile delle vittorie calcistiche, il giorno della vittoria è stato festeggiato, con i tifosi sono scesi in piazza, hanno fatto di tutto. Niente di particolare, tutto quello che si fa ogni volta che si vince una partita importante, una coppa importante, un campionato importante. Si scende in piazza e si fa casino, ci si tuffa nelle fontane, si sbandiera, caroselli con le macchine, baci, abbracci, strilla, urla, via dicendo. Insomma, un bel casino festoso. L'hanno fatto tutte le città, è sempre stato fatto, fa parte dei rituali imprescindibili del gioco del calcio. Certo è che questa volta ci troviamo sotto pandemia. E sembra paradossale, come ha detto il giornalista di Studio Aperto che abbiamo appena sentito, che si fanno tanti scrupoli e tanti marchingegni tecnologici per evitare il tifo e l'assembramento allo stadio, e non si riesce a fermare, diciamo, l'esplosione di gioia. Naturalmente, come avete sentito, questo ha causato un'infinità di polemiche. Ranieri Guerra, per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha detto vergogna, una cosa orrenda, schifosa. Salvini non gli pareva vero, lo hanno bastonato per giorni perché lui sfiatellava con i suoi fan per strada, senza mascherina e via dicendo. Ha detto: avete visto i napoletani, anche loro, come se fosse la stessa cosa. Un parlamentare, un ex ministro che ha un comportamento scorretto contro le regole, e dei tifosi che se ne fregano e scendono per strada. Però questo oggi ci impone di fare una riflessione che probabilmente il nostro pubblico ha elementi per poterci aiutare a portare a compimento. Ecco, cosa si poteva fare? Perché è facile dire cosa facciamo. Ecco, un governatore De Luca cosa avrebbe dovuto fare in maniera preventiva? Sigillare la città per una settimana, prevedendo che sarebbe accaduto, ma poteva sapere che vinceva il Napoli. Dice: vabbè, le possibilità erano al 50%, quindi probabilmente sia a Torino che a Napoli i due governatori dovevano predisporre qualcosa perché non accadesse. Ma trovate plausibile e possibile riuscire a frenare l'entusiasmo dei tifosi per una vittoria così importante? Eppure ci dovrà essere una soluzione, perché da qui a qualche mese accadrà qualcos'altro nel campo del calcio e ci sarà nuovamente il problema. Non vogliamo essere messaggeri, ma la profezia sia troppo facile. Chi vincerà lo scudetto? Chi vincerà lo scudetto naturalmente farà la stessa cosa, e molto probabilmente da qui a un mese, due mesi, saremo ancora sotto emergenza, perlomeno ci saranno le norme di distanziamento da osservare. Allora cosa si fa? Noi abbiamo proposto alcune idee che possono sembrare paradossali, ma solo col paradosso si risolve una situazione che in sé è paradossale. Vediamo come potete rispondere voi chiamando all'800240024, integrando con le vostre idee, che saranno sicuramente migliori delle nostre, a quello che è un grande dilemma. Continuerà l'emergenza Covid, continuerà comunque il tifo calcistico, possiamo evitare di riempire gli stadi, ma non possiamo evitare che le città si riempiano di esultanza. 800240024, il sondaggio. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito sciagurati i tifosi napoletani che l'altra sera sono scesi in strada con caroselli e assembramenti per festeggiare la vittoria della Coppa Italia. Il sindaco di Napoli, De Magistris, si è difeso dicendo che l'OMS ha esagerato e ha ricordato che i nuovi contagi a Napoli nelle ultime settimane sono quasi nulli. Certo è che il problema rimane. Data l'imminente ripresa del campionato di Serie A, come dovremo affrontare i festeggiamenti con assembramenti, abbracci, urla, cori di migliaia di persone nella città che vincerà lo scudetto tra alcune settimane? Proviamo a dare delle ipotesi per evitare rischi e polemiche. Fateci sapere come la pensate chiamando ora all'800240024, scegliendo una di queste tre soluzioni o proponendone delle altre. 1. Alla città la cui squadra vincerà lo scudetto si impone un lockdown di una settimana, unico modo per impedire alla gente di scendere in strada e assembrarsi. 2. Si permettono i festeggiamenti nella città vincitrice, ma si predispone lo schieramento di imponenti contingenti militari per controllare che vengano assunte dai tifosi le distanze e le misure di sicurezza. 3. Si rimanda l'ultima giornata di campionato, decidendo di farla disputare solo quando il rischio di contagio sarà praticamente nullo. Nota, al momento in classifica è prima la Juventus, seconda la Lazio, terza l'Inter. Quindi la città vincitrice sarà o Torino o Roma o Milano. Avete visto, abbiamo posto tre ipotesi. Non vediamo altre possibilità di soluzione, quindi approfondiamo questo, vediamo se riusciamo a tirare fuori dal nostro pubblico, che ha sempre grandi risorse, qualcosa da suggerire ai governatori, ai funzionari, rappresentanti, dirigenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché non può essere sempre buttata in disputa politica o in chiacchiera da social. Sono stati i napoletani, sono stati loro, perché sono sempre i soliti, scendono in piazza, fanno casino, sono casinari di natura, ma se avesse vinto la Juventus sarebbe stato probabilmente la stessa cosa. Ma come abbiamo noi previsto nel terzo punto del nostro sondaggio, se facciamo una moratoria e impediamo di giocare la partita decisiva che definisce il vincitore di un campionato, beh, in questo caso probabilmente congeliamo questo fenomeno. Ma se non possiamo congelare il fenomeno, in questo caso dovrebbero essere tre le città comunque interessate, quindi in maniera preventiva si dovrebbe stabilire che, non lo so, un battaglione va a Milano, un battaglione va a Torino e un battaglione va in un'altra città, e ci si mette d'accordo chi poi dovrà convergere per arginare il mancato distanziamento sociale. Oppure si impone il lockdown. Si dice chi vince con un anticipo prevedibile comincia a sapere che dal giorno esatto, dal minuto esatto che il gol della vittoria ti assegna appunto il sospirato trofeo, nessuno può più uscire di casa, e quindi la gente si affaccia ai balconi, si affaccia alle finestre, festeggia quando vuole, ma c'è una settimana di lockdown imposto. 800240024, Pino, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, io non sono per le manifestazioni esagerate in un campo, né in campo calcistico né in campo sportivo in genere. Le manifestazioni di giubilo vanno benissimo. Io invece sono contro la chiusura del contatto umano, cioè a questo punto non serve più tenere lontane le persone. Le ultime analisi che stanno facendo le stanno facendo solo ed esclusivamente sul personale sanitario, sulle persone che sono nelle strutture. Però Pino, parliamo di un problema definito. Io poi mi sembra di essere spiacevole, poi mi prendo le accuse di censore. Non mi serve l'ennesimo esperto in virologia o in epidemiologia, Pino. Le disposizioni oggi dicono che bisogna mantenere il distanziamento sociale. Quindi questo parliamo. Questo cozza con l'impossibilità di arginare dei giubili di folla così, così prevedibili come quelli per la vittoria importante di una partita. Quindi cosa facciamo? La prossima il prossimo fine campionato, la prossima coppa, il prossimo giubilo sportivo che investe una città vedrà la gente che scende in piazza. Quindi per evitare di poi rimpallarsi le responsabilità qualcosa bisogna fare. Quindi noi abbiamo proposto tre soluzioni. O in maniera preventiva si dice chi vince sta a casa una settimana e ve la pigliate poi con i tifosi, non ci importa, però dobbiamo salvaguardare la salute pubblica. O si dice comunque blindiamo con l'esercito le due o tre città che potrebbero arrivare a fine campionato o nella partita finale di un'importante vittoria sportiva, ma soprattutto di calcio, perché di calcio stiamo parlando. Quindi si spostano le truppe nelle due o tre città, stanno lì, si accampano, fanno bivacco dei loro manipoli e aspettano che qualcuno vinca per mettersi per strada, evitare che la gente si distanzi, poi lì si aprirebbe un altro problema. Terza cosa, si rimanda, nessuno vince finché non finisce l'emergenza, e vabbè, nessuno si taglierà le vene, finché non finisce l'emergenza rimaniamo potenziali vincitori in due o tre città e l'apoteosi ci sarà quando non ci sarà più paura. Carla, provincia di Cagliari. Buongiorno. L'ascolto. Sente? Allora, io ne proporrei una quarta. Cioè... magari, io aspetto nuovi suggerimenti, nuove idee. Allora, dica. Io penso che si possano determinare varie zone della città e lì, diciamo, far intervenire tifosi contingentati. Però aspetta, Carla, il problema è che questa cosa prevede un'organizzazione logistica. E noi chi vince veramente lo sappiamo al momento dell'ultimo fischio dell'arbitro, quando finisce la partita. Quindi comunque questa sua misura, che assomiglia un po' allo spostamento delle truppe nelle città finaliste, prevede che almeno in due città si faccia un piano di emergenza tifosi, portando logicamente i tifosi in zone molto ampie dove possono stare distanziati. Ma lei però deve capire che il tifoso vuol far casino nelle zone monumentali, nel centro cittadino, dove qualcuno lo vede. Se no prendiamo dei bei campi all'aperto non coltivati e ci mandiamo i tifosi, ma nessuno fa casino ai grilli e alle cicale. Il casino si fa perché bisogna saltare nelle fontane, andare con gli striscioni, correre in piazza. È un problema difficile, però ci stiamo un pochino avvicinando. Franco da Firenze. Sì, Franco, buongiorno. Premetto che sono un ex calciatore a livello dilettantistico, ma ho giocato fino a che schiena e ginocchi me l'hanno permesso, quindi sono malato di calcio. Vabbè, sicuramente... quindi, diciamo, è una persona competente, non è uno che dice che a me il calcio non piace, stiano a casa. No, lei capisce che... ecco, però lei capisce che il problema è veramente difficile da risolvere. È impossibile, secondo me, arginare la gioia di una città che vince una coppa o uno scudetto. Come si fa? Sono troppe persone. Qui siamo di fronte a due categorie di persone: a persone istintive e a persone intelligenti. In questo caso deve vincere l'intelligenza. Deve vincere l'intelligenza di capire che questo è un campionato falsato in ogni caso, perché non si può far fine adesso, perché i calendari delle varie capoliste sono stati diversi. Quindi non è giusto che vinca la Juventus perché era prima. Io sono juventino. Non è giusto che vinca Lazio perché ha avuto un campionato favorevole. Il campionato non ha più senso. Come non ha più senso vedere delle partite come l'altra sera con delle marionette virtuali per una quindi lei dice ci stiamo prendendo in giro, alla fine no, non sono partite, ci stiamo prendendo in giro, non ha più senso il campionato quest'anno, non ha più senso. L'unico senso che ha è che va dato un nome, due nomi, tre nomi per la Champions League e per le altre coppe che dovranno venire. Quindi lei entra in un territorio per me molto ostico, però ho capito quello che lei dice. Ma quindi mi dica una cosa, no Franco, che mi interessa un attimo il suo parere. Quindi un domani uno juventino potrà andare a dire ai napoletani: sì, avete vinto una partita finta che non esiste, no, è una cosa del genere. No, è una presa in giro per un amante del calcio come sono io. Io avrei potuto vincere o perso, mi va bene tutto. però mi scappava da ridere. Io a metà del secondo tempo ho spento la TV perché con quell'affare... Sì, però hai ragione, cambiando le condizioni generali, l'ambiente in cui si gioca una partita. La partita si gioca con equilibri diversi rispetto alle partite giocate normalmente, capito? Però il campionato finisce, lo scudetto lo devono dare a qualcuno, come fanno? No, quest'anno lo scudetto purtroppo va in deroga, è successo un fatto talmente importante. Che senso ha vedere uno come Ronaldo, del quale io sono amante, che sappiamo di fronte a tutto quello che è successo e le problematiche ci sono, che ha 3 Ferrari in garage, non può più essere un idolo in questo momento, lo capisci? È tutto falsato, non ha più senso. Il calciatore in questo momento ha perso del suo fascino, è una persona vacua, è una persona stupida, una persona inutile. No, lei ha ragione, lei lo dice da calciatore, quindi accetto. Non ha più senso. È cambiato anche, è cambiato il rapporto tra un tifoso e il proprio divo, il proprio eroe. Perché? Perché stiamo tutti in situazioni talmente difficoltose che non riusciamo più a esultare o vedere al culmine della nostra ammirazione una persona che tutto sommato ha un'infinità di risorse rispetto alla media delle persone. Ci fermiamo un istante. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Come dovremo affrontare i festeggiamenti con assembramenti, abbracci, urla, cori di migliaia di persone nella città che vincerà lo scudetto tra alcune settimane? Proviamo a dare delle ipotesi per evitare rischi e polemiche. Fateci sapere come la pensate chiamando ora all'800240024, scegliendo una di queste 3 soluzioni o proponendone delle altre. 1. Alla città la cui squadra vincerà lo scudetto si impone un lockdown di una settimana, unico modo per impedire alla gente di scendere in strada e assembrarsi. 2. Si permettono i festeggiamenti nella città vincitrice, ma si predispone lo schieramento di imponenti contingenti militari per controllare che vengano assunte dai tifosi le distanze e le misure di sicurezza. 3. Si rimanda l'ultima giornata di campionato, decidendo di farla disputare solo quando il rischio di contagio sarà praticamente nullo. 800240024, ringrazio da Milano Filippo Aureggi e Giorgio De Luca, da Roma Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti. Oggi è un sondaggio da difficile soluzione. Abbiamo dato 3 ipotesi di come risolvere il problema del tifo spontaneo che fa giubilo in piazza il giorno della grande vittoria, perché tutti si sono indignati oggi sui giornali per quello che hanno fatto i tifosi napoletani, ma alle prossime partite, ai prossimi eventi di grande vittoria in altre città, cosa si farà di diverso? Quindi qual è la soluzione? L'abbiamo poste 3 giocando sul paradosso: lockdown preventivo per le città che disputano la partita finale, spostamento preventivo di militari nelle città che si prevede che possano vincere e quindi gestire un distanziamento sociale, poi non si sa nemmeno come, che mettono gli idranti, i cavalli di Frisia, difficilissimo. Terzo, proposto anche da un ascoltatore che è molto più esperto di me di calcio, diciamo che abbiamo scherzato, quest'anno non si può parlare di campionato di calcio, di Coppa Italia, perché le partite sono state falsate, sono partite irreali, senza pubblico, la percezione è diversa, quindi per un anno, se c'era la guerra termonucleare, che facevamo? Non si giocava, c'è stato il Covid e quindi non si è giocato, facciamo finta che non si è giocato. Ivo, provincia di Ancona, come la pensa? Salve Nicoletti. Io la penso molto semplice, la gente deve essere responsabile. Il secondo quesito quasi che si avvicina a quello che penso io. Gli altri 2 non vanno, perché inutile spostare una settimana vuol dire sempre procrastinare come facciamo in Italia, no? Rimandiamo sempre. Però si potrebbe fare una, diciamo così, una norma generale di controllare con i droni alla popolazione, perché se la popolazione festeggia a Salerno, festeggia a Napoli, festeggia a Roma, allora non puoi mandare Ma quando scendono in piazza in un centro cittadino migliaia e migliaia di persone, ci vogliono decine di migliaia di forze dell'ordine per distanziarli. è una guerra civile, si rende conto che è molto difficile. Noi in Italia dobbiamo iniziare a imparare a rispettare le regole. Quando questi si prendono una multa a 1.000-2.000 euro oppure vanno a fare 20 giorni di servizi sociali che devono sospendere il lavoro... Ah, quindi le normative durissime per gli assembramenti di piazza, questo dice. Chiaro, sempre di raggirare le però normative. Scusi, Livo, lei si ricorda i giorni in cui c'era proprio il lockdown, le prime riaperture... ci sono state levate di scudi, vergini vestali, che si sono stracciati i capelli, strappati i capelli per dire come i poveri ragazzi davanti ai pub gli impedite di prendersi l'aperitivo, come la gente non può nemmeno avere un contatto sociale. Lei si immagini se ci fossero delle norme speciali per vittoria dello scudetto, si rivolterebbe il paese. È un problema, ma ne discutiamo comunque, si può sempre argomentare e fare delle ipotesi. Michele da Milano. Buongiorno, senta, io volevo di sentire prima di tutto dal penultimo signore che ha chiamato, che ha detto che vabbè è una vittoria inutile perché è tutto vacuo, tutto inutile perché dopo quello che è successo a me non sembra. Sì, vabbè, infatti lo rispetto il suo parere, però non lui dice le partite sono svolte senza una componente importante che è il pubblico, che è lo stadio, e quindi sono partite diverse, i giocatori giocavano con un clima diverso, questo è oggettivo, lo abbiamo detto. Sì, è vero, però non è vero che è una cosa vacua, nel senso che se fosse successo che avesse vinto la Juve sarebbe successo il finimondo, vedi qua e vedi là, però voglio dire che in questo caso qua non si poteva fare niente perché oltre a essere stata una vittoria sul campo è stata una vittoria sul sistema, perché sono loro che causano queste cose, la società Juventus, perché loro praticamente sono loro che hanno spinto per iniziare il campionato. Però Michele, scusi. Io non so Mughini, non so la differenza fra Juve e Napoli, non mi intendo di calcio, quindi se lei adesso riporta la discussione su una discussione per esperti di calcio, non è questo il tema, non so esattamente, penso che voglia dire che la Juventus ha delle responsabilità, non lo so, può essere vero, non può essere non vero, non è un tema che mi appassiona, io voglio soltanto prevenire il prossimo stracciamento di vesti da quelli che diranno che schifo, che orrore, che non sarà per il Napoli, che non vincerà nemmeno anche lo scudetto al Napoli, ma sarà un'altra città in cui avverrà la stessa cosa e tutti diranno si poteva evitare. Io questa mattina vorrei immaginare come semmai si può evitare. Giovanni da Genova. Buongiorno a tutti. L'ascolto. Faccio veloce che tra poco entro in riunione, scusatemi. Sì, ma è importantissimo. Pragmatico alla sua domanda, ipotizzando troppo onerose oppure troppo difficile essere messe in pratica le vostre tre proposte, proporrei nella città in cui venisse vinto lo scudetto di aprire lo stadio mantenendo garantendo come avviene nei bar oggi il distanziamento sociale, che è la misura più efficace che sta salvandoci oggi, e l'afflusso allo stadio, quindi l'entrata allo stadio scaglionata con ordine, eccetera. Quindi però faccio capire, questo finita la partita una volta assegnato? Nella città, quindi si apre lo stadio che è capiente per un numero... Sì, ma mi faccio capire, usare lo stadio come si usava al tempo della dittatura in Argentina per metterci la gente dentro, perché c'è tanto spazio, finita la partita? Questo è il senso. Chi entra non ho capito. Entra l'abbonato, che è quello che è il portatore di maggiore interesse in via prioritaria. Lei dice facciamo comunque sfogare nelle finali la gente allo stadio, ecco. Questo vale diciamo. Sì, però tutti gli altri, c'è anche chi non va allo stadio vuol festeggiare. Questi una volta vinto rimangono dentro lo stadio, cioè non li fa più uscire finché non hanno festeggiato. I portatori di maggiore interesse, che credo siano gli abbonati, sono quelli che si riversano sopra in via prioritaria, conoscendone tanti abbonati, io lo ero, sono quelli i portatori di maggiore interesse e quindi sono quelli che si presume vogliono festeggiare in via prioritaria rispetto agli altri. Qui però scusi una cosa, non ho capito sull'unica cosa, questi possono entrare durante a assistere alla partita? La partita? Lo stadio viene aperto, lo stadio della città vincitrice che è Ho capito. Di migliaia di persone. E secondo lei questo soddisferebbe, diciamo, la voglia? Vanno allo stadio, sbandierano, urlano, fanno quello che vogliono. Assolutamente. E questo potrebbe essere una soluzione. Tenere due stadi pronti delle due squadre che sono, diciamo, in finale, e al momento che si vince ordinati tutti allo stadio, distanziati, e vi fate una festa, come dire facciamo una festa nella palestra della scuola, ecco, una cosa del genere. Si portano le Coca-Cola, le aranciate, le patatine e festeggiano. Questa è un'ipotesi, tanto la situazione è talmente paradossale, la sua ipotesi mi sembra molto più coerente e fattibile delle nostre, probabilmente. Antonio da Napoli. No, aspetta, mi devo fermare un attimo. Fermo un attimo, Antonio, abbia un attimo di pazienza, tu dare la linea e riprendiamo fra un secondo. Promo 24. Riprogettare i processi, digitalizzare la supply chain o adottare sistemi di business intelligence prima dell'emergenza sanitaria non sembrava urgente, ma ora è vincolante per il futuro delle aziende. Sorma, gruppo Centropaghe, che da 40 anni informatizza aziende manifatturiere multisettore e internazionali, realizza progetti di innovazione e offre soluzioni custom di MES, logistica di magazzino, Salesforce Automation, fatturazione elettronica, business intelligence e analytics. Il software SI5 ERP di Sorma coniuga funzionalità potenti con la tecnologia e la digitalizzazione. Con la nuova versione web del software SI5 ERP di Sorma, gruppo Centropaghe, i dati sono accessibili da remoto H24. Visita sorma.com, ERP e Digitech per aziende sfidanti. Melog 800240024, ci stiamo avvicinando comunque anche ad altre soluzioni rispetto a quelle che noi abbiamo proposto per arginare l'entusiasmo dei tifosi in occasioni calcistiche, nei grandi eventi, nelle grandi vittorie. Un ascoltatore dice: apriamo gli stadi, lo stadio della città vincitrice, mettiamolo con un controllo più semplice, perché è più facile controllare una popolazione nello stadio. Gli abbonati vanno allo stadio e fanno una grande festa, possono fare quel che vogliono, cantano, ballano, però a distanza, senza rischio, gli si danno, non lo so, pinte di birra, mucchi di salsicce, possono fare quello che vogliono, danno lo stadio per una notte e festeggiano. È un palliativo, certo, non è come occupare gli spazi nevralgici di una città, però è sempre meglio di niente. Antonio da Napoli. Buongiorno. Cosa propone? Allora, io avrei un'altra soluzione, fare solo dei caroselli con le auto senza scendere dalle auto. Girare per la città con bandiere, però nelle auto senza fare assemblamenti. Sì, creare diciamo delle corsie dove possono andare le auto con le bandiere, con tutto, però esatto, nessuno può uscire a piedi. Perché anche se si fa uno stadio premeditato per lo scudetto, comunque ci sono le persone comunque che escono per le strade. Allora dire a tutti di fare la squadra che vince lo scudetto, di scendere per le strade, sì, ma con le auto, senza uscire dalle auto, con bandiere e tutto, con fare festa diciamo della città. Cioè lasciare libero un tratto della città, diciamo, a viabilità limitata soltanto per i tifosi, andate in giro, fate i caroselli, suonate i clacson, sparate i mortaretti. Senza scendere dalle auto. E questo, secondo lei, era applicabile a Napoli l'altro giorno in maniera preventiva? Allora, fosse detto. Dico una cosa, non perché sono di Napoli, anzi sono di Ercolano, provincia ma nei vicoli come fanno? Dove non si entra con l'auto, come fanno? No, non si preoccupa, perché nei vicoli le macchine ci vanno, tranquillo. Perché vogliono far capire di Napoli. Però dico una cosa, come mai si parla di vergogna a Napoli perché ha vinto la Coppa questi caroselli? E poco tempo fa a Roma, con il tricolore di un chilometro, quant'era, tutta quella gente assemblata, in piena ancora pandemia, ma nessuno ha detto niente. Ma no, ma questa polemica, Salvini subito ha detto, avete detto di me? Sì, no, hanno detto tanto, voglio, hanno detto tantissimo. Diciamo che il tifo è difficilmente arginabile, perché è una cosa che parte di base, non ha un'ideologia, semplicemente è la fede calcistica. Quella era una manifestazione organizzata da forze politiche, potevano pensarci un po' prima, ecco, questo è il discorso, non è sullo stesso piano. Io sto parlando di un fenomeno sociale che è difficilmente arginabile, perché è sempre esistito, è una tradizione, è difficile da contenere. Lì era scientificamente le forze politiche hanno portato la gente in piazza un giorno in cui magari era meglio andare in piazza, ma la gente è andata in piazza per manifestare per tutte le ideologie in questi ultimi giorni e nessuno si è posto il problema, onestamente è così. Però noi parliamo di calcio oggi. Allora, Marco da Vicenza. Buongiorno Nicoletti. L'ascolto. Io penso che ci sia una soluzione molto semplice, perché c'è la tessera del tifoso e mi sembra che i tifosi debbano comprare biglietto a nominativo, o sbaglio? Non saprei dire, non ho mai visto una partita, non lo so. La tessera del tifoso. Sì, è proprio personalizzata, certo, uno paga la tessera per se stesso. Quindi io so esattamente chi va allo stadio, ok? Proibisco gli assembramenti, perché devo proibirli per salvaguardare la salute pubblica. Hai scelto di assembrarti, hai preso il Covid, quando vai all'ospedale trovi la porta chiusa, ti metti a casa e ti curi da solo. Ce la incrocerebbe il database di quelli che hanno la testa per lo stadio, con il database delle persone che si presentano agli ospedali dicendo: se tu hai la tessera che andava allo stadio c'hai il Covid, non ti curiamo, una cosa del genere. Ma scusi, perché io devo salvaguardare il diritto di fare festeggiamenti, perché uno va in giro, suona il clacson, che è proibito, devi prendere la multa se suoni il clacson, devi curarti perché fai il festeggiamento della squadra, che non me ne frega niente, devi intasare la sanità pubblica perché devi festeggiare e assembrarti. Ma lei ragione, Marco, lei parla però di un mondo ideale in cui accadono solo le cose che noi piacerebbero. Guardi, a che piacerebbe vedere una città pulita, ordinata? Io abito a Roma, pulita, ordinata, senza gente che dorme alle stazioni, che tutti stanno sorridenti, che la gente non ti manda a fare in culo appena gli incroci per sbaglio 5 secondi di ritardo al semaforo e via dicendo. Lo so, però questo presupporrebbe un livello di civilizzazione che ancora non è così equamente diffuso nel nostro paese. Lei ha perfettamente ragione, non ci dovrebbe essere nemmeno bisogno di dirle queste cose. Sono tutti comportamenti ai limiti della regola e comunque invasivi della quiete degli altri. Però è stato tollerato dal dopoguerra oggi questa cosa qua. E quindi oggi è un po' difficile far arretrare questa usanza, tanto che stiamo qui a scervellarci di come fare a risolvere un problema che la cui risoluzione sarebbe: c'è Covid, ci sono delle regole di distanziamento, festeggia ma stai distanziato e tienti la mascherina, figuriamoci. Luca, provincia di Trento. Buongiorno. Buongiorno. Sì. Io ho sentito tutti i commenti, ma è un problema molto grosso, perché intanto bisognerà vedere quale sarà la situazione sanitaria del Covid a luglio, quando finirà il campionato, visto che finirà, e mi sembra che finisca alla fine di luglio. Però trovo improbabile che da qui a un mese si aboliscano le regole di distanziamento sociale. Esatto. Allora, se la perché almeno fino a settembre durerà così, perché sennò la gente andrebbe al mare tranquillamente, ecco, non si porrebbe il problema. Esatto. Allora, inutile cercare tutte queste soluzioni strane, arzigovolate che hanno detto. È inutile. Cioè, se lei si immagini, se vince lo scudetto la Lazio, che è Roma, che sono una vita che non vince lo scudetto, quello che potrebbe succedere. E allora, dal momento che... E le dico, è inarginabile, ma nemmeno se ci mandi l'esercito rinunciano a farlo, è chiaro, questo è chiaro. C'è un ascoltatore che mi scrive: grandi effusioni di spray urticante, tempesta di manganellate. Sì, ma non si può trasformare in guerra civile una vittoria calcistica. Lo spray urticante e le manganellate non fermano comunque il tifoso, questo è risaputo. Abbiamo provato a dare soluzioni razionali a un problema che parte e ha delle radici nell'irrazionale, e quindi il nostro sforzo era fantasioso, disperato quanto avanguardistico. Ci sentiamo la prossima settimana.